Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio. In queste settimane di festa vi riproponiamo alcuni dei nostri viaggi e dei nostri consigli. La formula è sempre la stessa, il sommario. Voliamo nelle isole Canarie, un arcipelago lontano dalle mille possibilità. Poi saliamo sui treni più scenografici della penisola e poi, con passaggio in Italia, andiamo a Grottole. Arcipelago spagnolo al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, le Canarie sono isole vulcaniche conosciute per le spiagge di sabbia bianca e nera. L'isola più grande è Tenerife, dominata dalla Teide, un vulcano attivo e occasionalmente innevato che ospita un osservatorio astronomico e fa parte del Parco Nazionale del Teide. Ce le racconta Silvia Donatiello, la responsabile dell'ufficio del turismo delle Canarie. Le isole 7/8, perché dall'anno scorso abbiamo una nuova isola che prima era considerata un'isola 8 e adesso è un'isola a tutti gli effetti che è la Graziosa. Sono una regione autonoma della Spagna, una regione ultraperiferica perché in realtà si trovano di fronte alle coste del Marocco, le coste meridionali del Marocco, quindi distano più di 2000 chilometri dal nord della Spagna. Dirti che sono conosciute anche, ma fin dall'epoca romana, per come le isole fortunate, per il loro clima è forse un po' scontato, però diciamo che il nostro pregio più evidente. Siamo un arcipelago che gode di un clima meraviglioso con una media annuale di 24 gradi tutto l'anno, con punte un pochino più alte d'estate, magari leggermente più basse in inverno come nel Mediterraneo, però più o meno la media è 24 gradi. Difatti siamo stati eletti il miglior clima del mondo. Questo è dovuto principalmente a due fattori: uno sono i venti alisei e l'altro è la corrente delle Azzorre, che mitiga il clima, perché per ubicazione geografica dovremmo avere decisamente delle temperature più alte. Detto questo, sono isole vulcaniche, sono isole nella maggior parte dei loro territori protetti, hanno il più alto numero di parchi nazionali, parchi naturali, riserve starlight per i cieli più puliti, eccetera, di tutta la Spagna. Un'altra cosa molto interessante è che la vetta più alta di tutta la Spagna si trova proprio in una delle 8 isole, che è il vulcano Teide sull'isola di Tenerife. Essendo isole vulcaniche, tutte con vulcani più o meno attivi, diciamo che alcune isole sono decisamente con vulcani molto antichi, quindi non più attivi, altre invece come Lanzarote o come Tenerife hanno dei vulcani che sono monitorati e che quindi sono ancora in attività. Magari sono un po' addormentati come il Teide, però insomma non sono spenti. Hanno una varietà di paesaggi incredibili. Diciamo che possiamo dividere l'arcipelago in due province: la provincia di Santa Cruz di Tenerife, che include le isole di Tenerife, La Palma, La Gomera e il Hierro, che sono le isole occidentali, quelle più protese verso le Americhe, e poi la provincia di Las Palmas de Gran Canaria con Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria e adesso La Graziosa, che sono le isole orientali, quelle più vicine alle coste dell'Africa. La differenza tra queste due province è che le isole orientali, quelle più vicine all'Africa, hanno le spiagge più dorate, più bianche, come per esempio Fuerteventura, mentre le isole occidentali sono isole con vette più alte, con un'altitudine più alta, con più boschi, con le coste più frastagliate. Va da sé che sono isole in cui si può andare tutto l'anno, e mi sembra scontato, considerata la tua premessa iniziale. Sono però, immagino, isole sulle quali si possono anche fare attività diverse anche a seconda della posizione. Diciamo che sono isole in cui si può fare mare, spiaggia tutto l'anno, ma oltre questo l'arcipelago offre attività outdoor sono addirittura considerate come, insomma, come una palestra aperta, all'aria aperta, aperta 365 giorni l'anno, quindi si possono fare sia tutti gli sport, meno sciare ovviamente, meno gli sport invernali. Credo che alle Canarie si possano fare tutti gli sport, anche gli sport estremi. Sono il paradiso del trekking, il paradiso dell'arrampicata, il paradiso dei ciclisti che vengono spesso e volentieri ad allenarsi durante i mesi invernali. Tutti gli sport acquatici, le immersioni, abbiamo delle riserve marine spettacolari. Anche i surfisti sono molto affezionati a queste isole. Sì, soprattutto sì, perché come vi ho detto prima ci sono i venti alisei che soffiano da nord-est. Questi venti quindi prendono quasi sempre i versanti laterali delle isole dove ci sono i migliori spot per fare sia surf che windsurf. Non a caso nelle isole come Gran Canaria, come Tenerife, come Fuerteventura si tengono tutti gli anni i campionati mondiali, ci sono delle tappe dei campionati mondiali sia di surf che di windsurf che di kitesurf, bodyboard, eccetera. Tu ci hai parlato molto del lato naturalistico, perché appunto sono isole vulcaniche, quindi ci sono vari tipi, vari ecosistemi da vedere, da esplorare. Che cos'altro si va a scoprire in queste isole? Cos'altro si può vedere? Le isole hanno una storia molto interessante e anche dal punto di vista non solo storico ma anche archeologico e dal punto di vista anche enogastronomico, sono isole tutte da scoprire, anzi secondo me questo forse è il lato meno conosciuto delle isole Canarie. Le isole sono, come abbiamo detto fino all'inizio, sono una regione spagnola, sono state conquistate alla fine del 400 e sono isole che erano abitate in origine, si pensa, da popolazioni di origine berbera. La conquista è molto interessante. Le popolazioni aborigene si pensa siano di origine berbera e che arrivassero dal Marocco in più periodi, in diversi periodi. E quando i conquistadores arrivano alle isole Canarie si ritrovano praticamente catapultati quasi nella preistoria. Quindi non esiste una storia medioevo, si passa una storia antica, si passa dalla preistoria direttamente al Rinascimento sulle isole. Le isole diventano importanti dal punto di vista storico perché sono un po' la base, un po' diciamo un porto dove approdare sia nella rotta per l'Africa sia nella rotta per le Americhe. Difatti Cristoforo Colombo fa scalo proprio alle isole Canarie nei suoi quattro viaggi verso le Americhe. In questo c'è testimonianza, c'è una casa museo a Las Palmas de Gran Canaria che è la casa museo di Cristoforo Colombo, ci sono varie torri, vari testimoni di questo passato. I centri storici delle varie cittadine sulle varie isole sono tutte del 1500, 1600, 1700 e sono molto belle da visitare, anche i musei, e questo per quanto riguarda un po' la storia. Invece per quanto riguarda per esempio i siti archeologici ne abbiamo tantissimi su tutte le isole, in particolar modo a Gran Canaria, e ci sono dei vari centri di interpretazione che si possono visitare, con necropoli, con cenobi. Insomma, ci sono molte cose da visitare, questo dal punto di vista storico. Poi dal punto di vista enogastronomico, le Canarie hanno È proprio qui ti volevo proprio sul lato mangereccio, perché voglio proprio sapere quali sono i piatti tipici locali. Allora, uno dei piatti tipici, proprio tipici del pesce fresco, ovviamente c'è un pesce che è il pesce pappagallo, che si chiama vieja in spagnolo, e la vieja si cucina con la papas arrugada, che sono queste patate piccole delle Canarie che vengono bollite con tantissimo, con la buccia, con tantissimo sale, quindi diventano rugose e si mangiano con la buccia e con la salsa mojo. Le salse mojo possono essere sia verde che rossa, la rossa è decisamente più piccante. sono ottimi e tipici delle Canarie sono anche i minestroni di Crescione, dello zucchino delle Canarie che è il Buvango. Ci sono vari piatti che sono tutti a base soprattutto di prodotti freschi dell'agricoltura, quindi di prodotti, degli ortaggi, dei formaggi. E ci sono, ogni isola può vantare dei formaggi che hanno vinto vari premi internazionali, soprattutto formaggi di latte di capra. E poi anche i vini. I vini di Tenerife, per esempio, erano cantati da Shakespeare già all'epoca. Quindi ci sono forse un po' per l'ubicazione geografica, forse un po' anche per la tipologia del terreno vulcanico. I vini di Lanzarote, di Tenerife, ma anche delle altre isole sono decisamente molto rinomati, tra cui per esempio il Grifo di Lanzarote, che è un malvasia secco, abbastanza alcolico, ed è un bianco, ed è, i cui vigneti sono coltivati nella lava. Silvia, secondo te c'è ancora qualche angolo di queste isole che non è stato ancora scoperto dal grande pubblico, diciamo, dal turismo, quello un po' più massiccio, magari anche solo un panorama diverso dagli altri, o veramente un angolo che ancora secondo te vale la pena di essere scoperto e che è ancora celato ai più? Ce ne sono vari. Diciamo che le isole, come vi ho detto all'inizio, sono territori protetti, quindi la maggior parte del territorio su ogni isola è un territorio protetto dove non si può costruire. Quindi le zone turistiche sembra un paradosso, ma sono estremamente limitate. Molto spesso i turisti vengono, fanno vacanza, stanno al mare e non conoscono il resto dell'isola da esplorare. Quindi secondo me l'interno di ogni isola adesso sì, forse col turismo sportivo inizia a essere un pochino più conosciuta, ma una cosa molto interessante che la maggior parte dei turisti non fa, per esempio, è il turismo astronomico, quello di abbiamo i cieli più belli di tutto l'emisfero nord, abbiamo i migliori osservatori e più importanti di tutto l'emisfero nord per poter vedere le stelle. Secondo me una cosa bellissima è fare delle passeggiate notturne guidate per vedere le stelle. Un altro luogo che secondo me forse è l'isola che è meno conosciuta ed è probabilmente una delle più interessanti è l'isola del Hierro, che è l'isola più occidentale, era l'isola del meridiano zero prima di Greenwich, fino alla fine dell'Ottocento è stata il Hierro ed è anche l'isola per esempio di un fenomeno che si dà solo alle Canarie, che è la pioggia orizzontale, e l'isola dei mille vulcani. Io consiglio vivamente, sono tutte belle, tutte da visitare, sono una diversa dall'altra, quindi non ci si annoia, però consiglio vivamente di scoprire l'isola del Hierro, che oltretutto vanta una delle migliori riserve marine, che è stata chiusa per un certo periodo perché nel 2011 c'è stata un'eruzione sottomarina. E adesso la riserva è ancora più ricca di prima. Ci fermiamo solo per qualche istante, non andate via. Quale sarà la professione più richiesta in futuro? Quali nuovi lavori 4.0 esistono già? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Sono Anna Marino e con I lavori di domani vi spiego in concreto cosa fanno e quanto guadagnano blockchain designer, strategist, data scientist, ma anche l'enologo o il magazziniere 4.0, tutte le figure più richieste nei prossimi 5 anni, ma che nell'80% dei casi le imprese non trovano. Insieme capiremo il lavoro che c'è e i lavori di domani. In onda ogni domenica dopo il GR delle 8 e i dettagli nella versione podcast su radio24.it. Globetrotter 24. Riprendiamo i nostri viaggi e questa volta saliamo in carrozza, non una destinazione ma i percorsi, quelli più affascinanti, comodi su treni stagionali o regionali. Itinerari unici e ce ne parla Alessia Coletta di Trainline. Trainline è un'app, è un sito web che permette di comparare diverse soluzioni di viaggio in treno e in pullman e permette inoltre di acquistare ovviamente i biglietti sulla nostra piattaforma. Al momento copriamo e vendiamo biglietti in più di 45 paesi in Europa e quindi è possibile specificatamente in Italia acquistare tutte le tratte ferroviarie di Trenitalia, Italo e dei maggiori player regionali. Parlando di tratte ferroviarie, voi avete messo giù una lista di quelle che potrebbero essere le tratte più belle da gustare, da vedere quando si è a bordo, e proprio quando si dice che il viaggio non è la meta, ma è quello che si fa per arrivare alla meta. Esatto, perché in Trenline siamo ovviamente diciamo promotori del viaggio come esperienza e non solo come destinazione da raggiungere, perché è vero che la meta conta, ma anche il tragitto che si percorre per raggiungerla è altrettanto importante. La selezione che abbiamo diciamo effettuato è nata un po' dall'esigenza di voler accontentare un po' persone di tutti i gusti, no? Quindi sia chi ama magari viaggiare per raggiungere destinazioni di mare o anche chi preferisce passare un weekend in montagna piuttosto che diciamo evadere dalla città e vedere un paesaggio un po' più rurale, ecco. E allora cominciamo a perderci su queste tratte, perché attraversano un po' il paese e cominciamo dal nord, cominciamo da questa ferrovia delle 100 valli, che già il nome è molto evocativo. Sì, allora la ferrovia delle 100 valli, che è anche ribattezzata come Treno del Foliage, è una tratta che collega il Piemonte alla Svizzera e percorre la bellezza di 83 ponti e 31 gallerie, quindi vale davvero la pena percorrere questo percorso di 52 chilometri. Quello che noi consigliamo è ovviamente di fare un giro in autunno per via dei colori del bosco della valle di Vigezzo, e perché fondamentalmente si ha come l'impressione di perdersi all'interno di un quadro per via appunto dei colori autunnali. Quindi siamo proprio nel momento giusto. Siamo nel momento ideale per poter decidere di fare un piccolo viaggetto sulla nostra ferrovia delle 100 valli, sì. Che lo ricordiamo parte da Domodossola e arriva a Locarno. A Locarno. Andiamo un po' più giù perché lasciamo per un momento la montagna, dove poi torneremo e ci avviciniamo al mare. E c'è questo tratto sull'Adriatico, sull'Adriatica anche perché costeggia anche la strada, che è proprio un bel tratto tra Ancona e San Benedetto. Sì, esatto. La tratta adriatica è sicuramente una delle tratte consigliate per chi vuole percorrere un viaggio lungo le nostre bellissime coste adriatiche. E il consiglio che noi ci sentiamo di dare è di viaggiare al mattino e soprattutto di controllare a che ora sorgerà il sole, perché effettivamente c'è un'alba mozzafiato se si riesce a percorrere quella tratta nelle prime ore del mattino. Ancora sul mare, Alessia, ci spostiamo questa volta però dalle Marche alla Liguria, nelle Cinque Terre. Esatto, Cinque Terre, che come sappiamo essere patrimonio dell'UNESCO, e dunque è possibile fare un viaggio prendendo il Cinque Terre Express, che è un treno stagionale attivo da marzo a novembre e percorre praticamente tutti i tratti della costa ligure. Ed è un viaggio davvero mozzafiato anche questo, perché tendenzialmente si possono vedere degli scorci sul mare disponibili solamente se si viaggia in treno, in quanto la maggior parte delle rotaie sono posizionate sono arroccati sulla parete rocciosa, per cui non ci sarebbe altro modo per poter visionare gli stessi panorami. Dove vai? Lasciamo il mare adesso e ci spostiamo in Toscana, perché magari non si ha voglia né di mare né di montagna, ma di un altro tipo di panorama che resta comunque un panorama sempre molto suggestivo. Sì, parliamo della tratta da Grosseto a Siena attraverso la Valle d'Orcia. Il periodo migliore, diciamo, consigliato è quello tra agosto e settembre o tra maggio e inizio giugno. Lo consigliamo per via del paesaggio che si può vedere, in quanto il grano è maturo, ma non si è ancora arrivati nel periodo della mietitura, e invece a inizio giugno ci sono dei fantastici girasoli da poter, di cui poter godere durante il percorso. La particolarità di questo treno, appunto, è che si addentra tra questi campi e in un attimo si ha la sensazione di essere davvero distanti da quello che può essere un paesaggio cittadino, no? Quindi in pochi minuti si abbandonano i palazzi e l'asfalto delle città e ci si addentra in questi paesaggi inaspettati. Alessia, sul finale torniamo verso le montagne, su un treno storico che è il treno rosso, il treno del Bernina, che i più conoscono e che sicuramente resta anche molto affascinante per i bambini. Sì, esatto, la ferrovia del Bernina, anche questa rientra nei patrimoni mondiali dell'UNESCO e collega Tirano fondamentalmente e St. Moritz in Svizzera. È un treno bellissimo, consigliamo di prenderlo almeno due volte l'anno, in estate e in inverno, perché ovviamente il paesaggio cambia a seconda della stagione, no? In inverno è possibile vedere le montagne innevate, quindi questo paesaggio tipicamente invernale, e invece in estate si ha la possibilità di appunto osservare queste valli immense. Alessia, sono tutti percorsi che è possibile fare in giornata, andata e ritorno, magari alcuni sono un pochino più lunghi, ma è possibile spostarsi la mattina per tornare la sera, anche perché veramente in questo caso vale proprio il viaggio. Sì, esatto, la maggior parte dei percorsi ovviamente può essere fatto in giornata, poi il consiglio è sempre quello di magari organizzare una piccola gita fuori porta durante il weekend per poter godere appieno sia del viaggio che della meta. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Questo è il momento dedicato a Passaggio in Italia. Ogni settimana le audioguide disponibili sui siti di Radio 24 e del Touring Club vi portano a scoprire il paese, anche grazie ai vostri suggerimenti. Questa volta Touring Club e Radio 24 vi raccontano il Materano e tutto quello che c'è intorno a Matera. E noi da qui partiamo per portarvi a Grottole. La parola ad Anna Rita D'Ambrosio. Questa settimana andiamo in una regione che mi è particolarmente cara. Andiamo in Basilicata, nel Materano per la precisione, con Matera, che ha vissuto questo 2019 davvero speciale di capitale europea della cultura. E noi vi vogliamo parlare di una realtà molto, molto bella, molto particolare, che si chiama Grottole. Adesso ci facciamo spiegare, e lo ringraziamo, da Andrea Paoletti dell'associazione Wonder Grottole. Grottole a che distanza si trova, quanti residenti ha, perché sugli abitanti poi si svolge la gran parte di questa nostra intervista. Allora, Grottole è un paesino che dista circa 30 km da Matera, quindi si impiega una mezz'oretta dalla città per raggiungerla, ed è un piccolo paese, come ce lo possiamo immaginare, sulla sommità di una collina in mezzo a due fiumi, ed ha un centro storico che ormai è quasi disabitato, perché conta circa 300 abitanti, ma soprattutto la cosa più interessante, la più importante, è quello che è quasi completamente disabitato e conta oltre 600 case dismesse. 600 case dunque vuote in un paesaggio molto bello, che ha incuriosito non solo voi, diciamo, residenti e l'amore per Grottole, ma anche Airbnb, per cui è nato un progetto proprio con la tua associazione per cercare di ripopolare Grottole. L'obiettivo di Wonder Grottole è quello di riabitare il centro storico, appunto, di questo piccolo paesino, e quindi dal 2017 abbiamo iniziato una conversazione con Airbnb per capire come insieme potevamo portare l'attenzione, diciamo, del mondo su questo paesino, proprio per capire quali potevano essere i metodi per riabitare il centro storico. Così nel 2019, il 15 gennaio di quest'anno, abbiamo lanciato una call internazionale che si chiamava Italian Sabbatical, perché eravamo alla ricerca di 5 persone che in maniera volontaria volessero venire a vivere con la nostra comunità e sviluppare insieme dei progetti. Ecco, queste 5 persone sono arrivate e ovviamente sono andate via incantate. Io invito anche i nostri radioascoltatori ad interessarsi a questa storia di grottole e anche a cercarvi su internet, perché ci sono poi le storie di queste 5 persone. Giusto. Noi abbiamo naturalmente un sito che è www.wondergrottole.it, siamo molto attivi sui social, sia sulla, abbiamo una pagina Facebook, un profilo Instagram. Appunto, tutte queste storie sono raccontate, è raccontata un po' la vita quotidiana di quello che succede nel paesino, perché quello che voglio sottolineare è che naturalmente non è il paese dei barocchi, è realmente un paesino del sud Italia dove avvengono le cose più belle, tipo non so, persone che vanno, hanno, producono il miele, persone che hanno l'orto. Quindi... Senti, la cosa che mi incuriosisce è che tu dici fanno delle cose normali, però quelle cose che fanno queste persone hanno quella semplicità e quella naturalezza che molti di noi abitanti delle città abbiamo perso, quindi è un'esperienza molto particolare quella di grottole. Giusto, è proprio questo, nel senso, l'eccezionalità del nostro progetto è proprio la normalità, quello che ormai nella grande città non si riesce più a vivere, quindi tornare a Matera e tornare un po', diciamo, alle origini, a quel vecchio rapporto uomo-terra che c'era in passato e che adesso in un certo senso cerchiamo di riscoprire. Senti, quindi dopo questi 5 fortunati, chiamiamoli così, come procede il vostro rapporto con Airbnb? Cioè i turisti, si spera che numerosi vogliano visitare Matera, il Materano e Grottole. Attraverso la piattaforma di Airbnb le persone possono vivere dell'esperienza grottole, e sono esperienze appunto come la raccolta delle olive piuttosto che imparare a fare il miele, quindi vedere nascere un'ape, che è una cosa, un'esperienza intensa, e oppure corsi di pasta fatta in casa, che è una di quelle cose appunto che lega anche l'immaginario collettivo al sud Italia. Quindi sono tutte esperienze che permettono alle persone di vivere un po' come un locale, perché sia per 3 ore, che sia per una giornata, sia per più giorni, l'obiettivo è quello proprio di far affezionare le persone a questa tipologia, a questa scala, diciamo, di comunità molto più ravvicinata. Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. Un ringraziamento in regia a Carmelo Lauricella, a tutti voi l'augurio di una bella settimana.